solo suona quel ragazzo. Come rende efficace tutto il pezzo, merito del suo impegno e del suo talento. La musica ce l'ha proprio dentro. Quel momento, tristezze e tempi bui, muoveva sapiente le sue dita sul suo filo strumento, e io sapevo che quel momento l'avrei a lungo rimpianto. Suona il basso perché domani sia migliore. Ci crede e lo fa con tutto il cuore.